Terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Dunque, abbiamo visto nel corso dell'ultima lettura come la situazione della guerra stia cambiando. I rapporti di forze tra francesi e russi si stanno lentamente capovolgendo a favore dei russi. E Napoleone commette l'errore fatale di attardarsi a Mosca, lasciando alle truppe la possibilità di saccheggiare la città. Cosicché soltanto dopo la battaglia di Tarutino i francesi cominciano a capire la gravità della loro situazione e, spaventati, lasciano Mosca. In questo periodo Pierre è stato per 4 settimane prigioniero dei francesi e le privazioni e le difficoltà della prigionia maturano in lui uno stato d'animo distaccato e superiore, di estrema serenità. Nella notte dal 6 al 7 ottobre cominciò il movimento di ritirata dei francesi. Si distruggevano le cucine, le baracche, si caricavano i carri e le truppe e i carriaggi si mettevano in moto. Nella baracca tutti erano pronti, vestiti, con le cinture infilate, le scarpe nei piedi e non aspettavano che l'ordine di uscire. Il soldato malato Sokolov, pallido, magro, con gli occhi cerchiati di azzurro, che era il solo senza scarpe né vestito, era seduto al suo posto e con gli occhi sporgenti a cagione della magrezza guardava interrogativamente i compagni che non gli facevano attenzione e gemeva sottovoce con monotonia. Si vedeva che non tanto la sofferenza, era malato di dissenteria, quanto la paura e la pena di rimanere solo lo facevano gemere così. Pierre, calzato di scarpe che Karatayev aveva fatte per lui tagliandole in un pezzo di cuoio che un francese aveva portato per farsi fare delle suole, cinto con una corda, si avvicinò al malato e si accoccolò davanti a lui. Via, Sokolov, non se ne vanno mica via del tutto. Qui hanno un ospedale, può darsi che ti capiti meglio che a noi. Adesso glielo domanderò ancora, disse Pierre, e alzatosi andò verso la porta della baracca. Mentre Pierre si avvicinava, il caporale andava verso la porta per chiuderla, secondo l'ordine del comandante. Prima di fare uscire i prigionieri, bisognava contarli. «Caporal, che fera-t-on du malade?» cominciò Pierre. Mentre diceva questo, però, si udì a un tratto da due parti il rullo del tamburo. Il caporale aggrottò le sopracciglia alle parole di Pierre e, proferendo un'ingiuria senza senso, chiuse con violenza la porta. La baracca si fece semibuia. Da due parti i tamburi rullavano seccamente, soffocando i lamenti dei malati. «Eccola, eccola di nuovo», si disse Pierre, e involontariamente gli corse un brivido per la schiena. Nel viso mutato del caporale, nel suono della sua voce, nel rullo eccitante e assordante dei tamburi, Pierre aveva riconosciuto quella forza misteriosa, impassibile, che aveva obbligato gli uomini, contro la loro volontà, a uccidere i propri simili. Temere quella forza, cercare di sfuggirla, rivolgersi con le preghiere o con la persuasione agli uomini che le servivano di strumento, era inutile. Ora Pierre lo sapeva. Bisognava aspettare e sopportare. Pierre non si avvicinò più al malato e non lo guardò. In silenzio, con le sopracciglia aggrottate, stava presso la porta della baracca. Quando le porte della baracca si aprirono e i prigionieri, come un branco di pecore, spingendosi l'un l'altro, fecero ressa alla uscita, Pierre si aprì un varco fra loro e si avvicinò a quel tale capitano che, a detta del caporale, era pronto a fare qualunque cosa per Pierre. Anche il capitano era in tenuta di marcia e sul suo viso freddo si leggeva quella medesima cosa che Pierre aveva riconosciuta nelle parole del caporale e nel rullo dei tamburi. «Filè, filè», diceva il capitano con piglio severo, guardando i prigionieri che gli si affollavano davanti. Pierre sapeva che il suo tentativo sarebbe stato vano, ma gli si avvicinò. «Eh bien, qu'est-ce qu'il y a?» disse l'ufficiale, guardandolo freddamente, come se non lo riconoscesse. Pierre disse dell'infermo. «Potrà camminare, che diavolo!» disse il capitano. «Filé, filé!» seguitò a dire, senza guardare Pierre. «Mais non, il est à l'agonie!» cominciò Pierre. «Dram, da-da-dam, dram, da-da-dam, da-dam, da-dam, da-dam!» rullavano i tamburi, e Pierre capì che la forza misteriosa aveva già soggiogato pienamente quegli uomini e che ormai era inutile dire qualsiasi cosa. Gli ufficiali prigionieri furono separati dai soldati e fu loro ordinato di andare innanzi. Traversando Chamovniki, uno dei pochi quartieri di Mosca che non fossero bruciati, Davanti alla chiesa, tutta la folla dei prigionieri ad un tratto si strinse da una parte e si udirono esclamazioni di orrore e di disgusto. Anche Pierre si avvicinò alla chiesa, presso alla quale era ciò che provocava quelle esclamazioni, e vide confusamente qualcosa appoggiato al muro di cinta della chiesa. Dalle parole dei compagni, che vedevano meglio di lui, apprese che quella cosa era il cadavere di un uomo che avevano messo lì, ritto presso il muro e spalmato in viso di fuliggine. Da tutte le parti si udivano uno strepito di ruote e un calpestio di piedi incessante come il rumore del mare, e gridi irosi e bestemmie incessanti. Pierre stava stretto al muro di una casa bruciata, ascoltando quei suoni che nella sua mente si fondevano col rullio dei tamburi. Alcuni ufficiali prigionieri, per vedere meglio, si arrampicarono sul muro della casa bruciata, accanto alla quale stava Pierre. Un'onda di curiosità collettiva spinse tutti i prigionieri verso la strada, e Pierre, in grazia della sua statura, vide, di sopra alle teste degli altri, ciò che tanto attirava la curiosità dei prigionieri. In tre carrozze, che si frammischiavano ai cassoni di munizioni, andavano delle donne, seduta una addosso all'altra, vestite di colori vivaci, imbellettate, che gridavano qualcosa con voci acute. Dal momento in cui Pierre aveva avuto coscienza dell'apparire d'una forza misteriosa, nulla più gli sembrava strano o pauroso, né il cadavere spalmato di fuliggine per divertimento, né queste donne che si affrettavano chissà dove, né i resti dell'incendio di Mosca. Tutto ciò che Pierre vedeva ora non gli faceva quasi nessuna impressione, come se la sua anima, preparandosi a una lotta difficile, rifiutasse di ricevere le impressioni che avrebbero potuto indebolirla. Il convoglio delle donne era passato. Dietro di esso sfilavano altri carretti, soldati, furgoni, e poi soldati, barrocci, carrozze, e soldati, cassoni, soldati, e di tanto in tanto delle donne. Pierre non distingueva le persone una per una, ma ne vedeva il movimento. Tutti quegli uomini e quei cavalli parevano spinti da una forza invincibile. Era già quasi sera, quando il comandante della scorta riunì i suoi uomini e con grida e discussioni si ficcò in mezzo ai carriaggi, e i prigionieri, circondati da tutte le parti, passarono sulla strada di Kaluga. Camminavano molto in fretta, senza riposarsi, e si fermarono soltanto quando il sole cominciava già ad andare sotto. I carri furono spinti gli uni contro gli altri, e gli uomini si prepararono a passare la nottata. Tutti sembravano irritati e scontenti. A lungo, da diverse parti, si udirono bestemmie, gridi rabbiosi e zuffe. Pareva che tutta quella gente, ora che s'era fermata in mezzo alla pianura, nel freddo crepuscolo della sera autunnale, provasse un solo e medesimo sentimento di antipatico risveglio dopo la fretta che aveva presi tutti al momento della partenza e dopo quel moto impetuoso verso chissà che meta. Dagli ufficiali fino all'ultimo soldato si poteva notare in ciascuno quasi una personale ostilità contro ognuno dei prigionieri, ostilità che aveva inaspettatamente preso il posto delle amichevoli relazioni di prima. Quest'ostilità aumentò ancora quando, durante la conta dei prigionieri, si constatò che, nella confusione dell'uscita da Mosca, un soldato russo, fingendo un dolore di ventre, era fuggito. Pierre vide un francese che picchiava un soldato russo perché si era allontanato dalla strada, e udì il capitano suo amico che rimproverava un sottufficiale per la fuga di quel soldato russo e lo minacciava di giudizio. Avendo il sottufficiale obiettato che il soldato era malato e non poteva marciare, l'ufficiale disse che c'era l'ordine di sparare su chi rimaneva indietro. Pierre sentiva che quella forza fatale che l'aveva oppresso durante l'esecuzione e che non aveva più avvertita nel tempo della prigionia, ora dominava di nuovo la sua esistenza. Ne era spaventato, ma sentiva che, col crescere degli sforzi che faceva quella forza fatale per schiacciarlo, nell'anima sua cresceva e si irrobustiva, indipendente da quella, la forza della vita. Pierre cenò con una zuppa di farina di segala e un po' di carne di cavallo e si mise a discorrere con i compagni. Tutti erano particolarmente animati ed allegri, come per resistere alla situazione che peggiorava. Parlavano di ricordi personali, di scene buffe vedute durante la marcia e troncavano i discorsi sulla situazione presente. Il sole da un pezzo era andato sotto. Stelle scintillanti si erano accese qua e là per il cielo. Rosso, simile a un incendio, il chiarore della luna piena che sorgeva si era diffuso all'estremità del cielo e l'enorme globo si dondolava meravigliosamente nell'oscurità grigiastra. Si faceva chiaro. La sera era già finita, ma la notte non cominciava ancora. Pierre si alzò, allontanandosi dai suoi nuovi compagni, e andò tra i fuochi accesi dall'altra parte della strada, dove gli avevano detto che erano i soldati prigionieri. Aveva voglia di discorrere con loro. Sulla strada una sentinella francese lo fermò e gli ordinò di tornare indietro. Pierre tornò, non verso i fuochi, non verso i compagni, ma verso un carro senza cavalli, presso il quale non c'era nessuno. Sedendosi sui talloni e abbassando il capo, egli sedette sulla terra fredda, presso una ruota del carro, e stette lungamente immobile a pensare. Passò più di un'ora. Nessuno disturbava Pierre. Tutto a un tratto egli si mise a ridere, del suo grosso riso bonario, così forte che da varie parti la gente guardò con meraviglia di dove venisse quella strana risata solitaria. Rideva Pierre e poi disse forte a se stesso: «Non mi ha lasciato passare il soldato. Mi hanno acchiappato, rinchiuso, mi tengono in prigionia. Ma chi? Me? Me? Me, la mia anima immortale!» E rideva, con le lacrime agli occhi. Un uomo s'alzò e si avvicinò per vedere di che ridesse da solo quello strano omone. Pierre smise di ridere, si alzò, andò più lontano da quel curioso e si guardò intorno. La luna piena stava alta nel cielo luminoso. Le foreste e i campi, che prima erano invisibili fuori dell'accampamento, ora si scoprivano lontano. E ancora più in là di quelle foreste e di quei campi si vedeva un'infinita lontananza luminosa, ondeggiante, piena di richiami. Pierre guardò il cielo, le stelle che si perdevano negli abissi e ammiccavano. «E tutto questo è mio, e tutto questo è in me, e tutto questo sono io», pensava Pierre. «E tutto questo loro lo hanno preso e messo in una baracca di tavole». Egli sorrise e andò a sdraiarsi per dormire accanto ai suoi compagni. Ai primi di ottobre arrivò da Kutuzov un altro parlamentare, con una lettera di Napoleone e con un'offerta di pace, falsamente datata da Mosca, quando Napoleone era già poco lontano da Kutuzov, davanti a lui, sulla vecchia strada di Kaluga. Kutuzov rispose che di pace non si poteva parlare. Poco più tardi, dal distaccamento di irregolari comandato da Dorohov, che marciava alla sinistra di Tarutino, venne la notizia che a Fominskoje erano apparse delle truppe, che queste truppe appartenevano alla divisione Brussier e che questa divisione, separata dalle altre truppe, facilmente poteva essere distrutta. I soldati e gli ufficiali chiedevano di nuovo di entrare in azione. I generali dello Stato Maggiore, eccitati dai ricordi della facile vittoria di Tarutino, insistevano presso Kutuzov perché si mettesse in atto la proposta di Dorokhov. Kutuzov non credeva necessario nessun attacco. Ne venne fuori un che di mezzo, come doveva succedere. Fu mandato a Fominskoje un piccolo distaccamento che doveva attaccare Brussier. Il 10 ottobre, il giorno stesso in cui Dokhturov percorse metà della strada sino a Fominskoje, preparandosi ad eseguire a puntino l'ordine ricevuto, tutto l'esercito francese, a un tratto, senza motivo, voltò sulla strada nuova di Kaluga e cominciò ad entrare a Fominskoje, dove prima era il solo Brussier. Là dove si credeva di trovare una sola divisione, c'era ora tutto l'esercito francese. Dokhturov non voleva intraprendere nulla, giacché non vedeva chiaramente in che consistesse il suo dovere. Gli avevano ordinato di attaccare Fominskoje, ma a Fominskoje prima c'era il solo Brussier, ora c'era tutto l'esercito francese. Fu deciso di mandare un rapporto allo Stato Maggiore. Per questo fu scelto un ufficiale intelligente, Bolkhovitinov, che oltre il rapporto scritto doveva spiegare a voce tutto l'affare. Verso mezzanotte, Bolkhovitinov ricevette un piego e delle istruzioni a voce e partì al galoppo, accompagnato da un cosacco coi cavalli di ricambio, alla volta dello Stato Maggiore Generale. La notte d'autunno era scura e tiepida. Era già il quarto giorno che veniva giù una pioggerella. Dopo aver cambiato due volte i cavalli e fatto in un'ora e mezzo 30 miglia al galoppo, su una strada coperta da una mota attaccaticcia, Volkhovitinov, prima delle 2 di notte, era arrivato a destinazione. Smontò davanti a un'isba recinta da una siepe, sulla quale era il cartello «Stato Maggiore Generale», e lasciato il cavallo, si avanzò nell'entrata oscura. «Il generale è di servizio, presto! È una cosa molto importante!» egli proferì, rivolto a qualcuno che si tirava su sbuffando nell'oscurità dell'entrata. Il generale Konovnitsyn capì subito che la notizia trasmessa aveva una grande importanza e che non si poteva indugiare. Egli non pensava e non si domandava neppure se fosse un bene o un male, ciò non gli interessava. Nell'anima sua c'era una profonda e inespressa persuasione che tutto sarebbe andato bene, ma che non bisognava parlarne e invece non fare altro che adempiere al proprio compito. E a questo suo compito egli adempiva, mettendoci tutte le sue forze. Anche Piotr Petrovich Konovnitsyn, come Dokhturov, godeva la fama di un uomo di capacità e di vedute assai limitate. E come Dokhturov non aveva mai fatto piani di battaglia, ma si era sempre trovato là dove le difficoltà erano maggiori. Dormiva sempre con la porta aperta dal momento che era stato nominato generale di servizio, ordinando che ogni corriere lo svegliasse. Durante la battaglia era sempre al fuoco, tanto che Kutuzov lo rimproverava per questo e temeva di mandarlo con qualche incarico. E al pari di Dokhturov era uno di quei perni invisibili che, senza stridere e senza fare chiasso, costituiscono la parte più essenziale di una macchina. Uscendo dall'isba nell'umida notte oscura, Konovnitsyn ne contrasse il viso, parte per il dolor di capo che s'era fatto più forte, parte per un pensiero molesto che gli era venuto in mente. Come si sarebbe agitato ora, a quella notizia, tutto quel nido di personaggi dello Stato Maggiore, e specialmente Bennigsen, che dopo Tarutino era in pessimi rapporti con Kutuzov. Quante proposte, discussioni, ordini, cambiamenti avrebbero fatti. E questo presentimento gli era molesto, benché sapesse anche lui che tutto ciò era inevitabile. Kutuzov, come tutti i vecchi, dormiva poco di notte. Di giorno spesso si assopiva all'improvviso, ma di notte, sdraiato sul letto senza spogliarsi, per lo più non dormiva e pensava. Così anche ora se ne stava sdraiato sul letto, appoggiando la pesante grossa testa fregiata dalle cicatrici alla mano grassa, e pensava, col suo unico occhio spalancato nelle tenebre. Da esperto cacciatore sapeva che la fiera era ferita, ferita come poteva ferirla solo tutta la forza russa. Ma se fosse ferita mortalmente o no, era una questione ancora insoluta. La questione insoluta, se la ferita fatta a Borodino fosse o non fosse mortale, incombeva già da un mese intero sul capo di Kutuzov. D'altra parte Kutuzov sentiva in modo indubbio con tutto l'essere suo che quel terribile colpo nel quale lui e tutti i russi avevano messo tutte le forze doveva essere mortale. Ma in ogni caso erano necessarie delle prove, ed egli le aspettava già da un mese, e quanto più passava il tempo, tanto più egli diventava impaziente. Sdraiato sul suo letto, immaginava tutte le combinazioni possibili, proprio come facevano i suoi giovani generali, ma soltanto con la differenza che egli non basava nulla su queste supposizioni, e che non ne vedeva 2 o 3, ma migliaia. Più ne pensava e più se ne presentavano. Egli immaginava ogni specie di movimenti dell'esercito di Napoleone, di tutto o di una parte di esso, verso Pietroburgo, verso di lui per aggirarlo. Immaginava anche, cosa che temeva più di tutte, che Napoleone si mettesse a lottare contro di lui con le stesse sue armi, che rimanesse a Mosca ad aspettarlo. Kutuzov immaginava anche un movimento di ritirata dell'esercito di Napoleone, ma la sola cosa che non poteva prevedere era quella che fu compiuta. Quel folle, convulso agitarsi dell'esercito di Napoleone durante i primi 11 giorni dopo la sua uscita da Mosca, quell'agitarsi che rese possibile ciò a cui Kutuzov non osava ancora pensare, la completa distruzione dei francesi. Nella notte dell'11 ottobre egli stava sdraiato, appoggiandosi a una mano, e pensava a questo. Nella stanza accanto si sentì muovere e si udirono dei passi. Ehi, chi è là? Entrate, entra, entra. Che c'è di nuovo? Disse a Bolkhovitinov, con la sua piacevole voce di vecchio, chiudendo la camicia che gli si era aperta sul petto. Vieni, vieni, vieni più vicino. Che notizie porti, eh? Napoleone è uscito da Mosca? È proprio vero, eh? Bolkhovitinov riferì particolareggiatamente tutto ciò che gli era stato ordinato. Parla, parla, parla in fretta, non mi straziare l'anima, l'interruppe Kutuzov. E Bolkhovitinov raccontò tutto e poi tacque, aspettando gli ordini. Kutuzov voleva parlare, ma a un tratto il suo viso si contrasse, si corrugò, e gli fece un gesto con la mano e si voltò dall'altra parte, verso l'angolo dell'isba dove nereggiavano le immagini. Signore mio creatore, hai ascoltato le nostre preghiere, disse con voce tremante, giungendo le mani. La Russia è salva. Ti ringrazio, signore. E si mise a piangere. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.